Ad alta voce. Marco Foschi legge La Gloria di Giuseppe Berto. Mai, in nessun momento della nostra dura storia, servitù d'Egitto o di Babilonia, travagliato cammino verso la terra promessa, o mortale guerra di Saul contro il popolo dei Filistei, mai eravamo stati così smarriti e divisi. Mai le nostre anime tanto cascate nella polvere e sovrastante l'ombra della morte. Perché dormi, o Signore? Perché la tua faccia distogli? La voce non fai sentire, quale la colpa? Il re dei Giudei prendeva autorità da Roma. Dall'alto della torre Antonia, i soldati di Cesare dominavano il tempio. Il suono dei loro corni, oltraggio e monito, colpiva il monte di Sion. Eravamo la favola degli infedeli, la testa scossa delle genti, vituperio per i nostri nemici. E tuttavia non era grande il cordoglio. Sommo sacerdote e sinedrio concordavano col procuratore idolatra le cose da farsi, per averne vantaggio, proteggere il popolo, dicevano, non dovendosi dare all'occupante occasione di infierire. Dove la tua potenza? Dove le gesta compiute nei giorni antichi? Scribi e farisei discutevano con vacuità e avvedutezza sull'assenza della legge, se dovesse prevalere la lettera sullo spirito o viceversa, o una prudente mescolanza. Carovane passavano per l'Oriente e dall'Oriente verso Giaffa e Cesarea, i porti di Roma, e i mercanti facevano affari, non rispettando neppure i luoghi sacri. Le fanciulle cantavano: Dio per noi è rifugio e forza, soccorso, sempre pronto nelle sventure, ma erano le loro voci a cantare, non i loro cuori. Il popolo andava da un giorno all'altro in pittoresco guazzabuglio, esercitando i numerosi mestieri coi quali comunemente sopravvivono i poveri, anche il furto, si intende, e la prostituzione, e peggio. Gli zeloti, invece, gioventù migliore e irrequieta, dicevano il silenzio dell'Eterno, da 400 anni durava, essere prossimo a finire, prossimo il suo sterminio di chi ci opprimeva e scherniva. Propugnavano resistenza e ribellione. Segretamente tenevano accesi gli animi e affilati i pugnali, ma tutto sembrava poco verosimile. Ogni tanto i romani ne arrestavano qualcuno, comune delinquente, e lo mettevano in croce, senza che si sapesse bene come fossero riusciti a prenderlo. Per delazione, si sussurrava, e lo sporco sospetto si annidava ovunque. Tradimento, parola destinata ad un più alto termine. Del libro, come ovvio, si parlava dappertutto con sapienza, delle promesse fatte dall'Eterno nostro Dio al suo popolo scelto e benedetto, delle lusinghe e delle minacce, dell'ormai imminente venuta di qualcuno, Elia, profeta, messia, che avrebbe sciolto tutti i nostri nodi e tormenti. Ma si aveva l'impressione che si trattasse di un vuoto parlare, che la fede fosse più altro esercizio retorico o abitudine stanca. All'esile aspettazione del regno si mescolava la suggestione degli idoli, il tenace rimpianto del vitello d'oro, la nuova seduzione dei molti dei che confortavano gli occupanti e, insomma, era anche possibile temere che Israele, fosse una minuscola e labile nazione dello sconfinato impero dei Romani, destinata a diventare provincia senza civiltà propria, senza un proprio Dio. Chi era stato a Roma raccontava con meraviglia e apprensione di folle e legioni, di spettacoli e riti, di grandiosità e splendori, in confronto ai quali quel che noi eravamo come numero e altezza appariva, nel silenzio dell'Eterno, ridicola cosa, di cui era lecito a coloro che ci stavano intorno e sopra farsi beffe e scherno. Difficile fede la nostra, e molti figli di Israele erano nel presente lontani dal loro Dio, poco fedeli al patto. Questo in Gerusalemme, la santa. Altrove, nella Giudea e Galilea, in tutta la breve terra dove l'Eterno nostro Dio s'era compiaciuto di collocare il suo popolo per abitare con esso, la grandezza di Roma non trovava cosa con cui misurarsi. I soldati di Cesare non si spingevano in regioni tanto prive di significato, né vi arrivava il suono dei loro corni. Lì la gente, vivendo fuori dalla storia, ma dentro il dolore di vivere, non poteva distrarsi dal credere. Stavano in più fervida attesa di colui che il libro diceva sarebbe venuto. Pregare insieme era il loro modo di chiedere e aspettare. Sconfinata umiltà e ancor più sconfinata superbia stavano nel loro rapporto con l'Eterno, e tuttavia non arrivavano a sperare e forse neppure a pensare, in fin dei conti non era a far loro, uno che con grida di guerra mettesse sotto il dominio di Israele tutte le altre nazioni della terra, a cominciare da Roma, si capisce. Erano gente semplice, senza limiti nella loro semplicità. Non avevano bastante cognizione della sete di potenza dei re, fossero pure unti dal Signore, perciò la loro fede prendeva piuttosto le vie del cielo e immaginavano che colui che il libro da secoli prometteva e ora sarebbe venuto perché era tempo che venisse, avrebbe riportato il popolo scelto e benedetto che senza stanchezza persisteva nell'aspettarlo ad una condizione che era al principio, poiché, come era scritto nel libro, l'Eterno nostro Dio al principio aveva piantato un giardino in Eden affinché vi si vivesse senza sudore di fronte o doglia di parto o angoscia di morte. E a questo giardino, privo di dolore di vivere e di morire, si sarebbe tornati non appena l'Eterno avesse mandato uno che, rompendo l'interminabile e inesplicabile catena di espiazioni e addossandosi la colpa della prima conoscenza e di tutti gli altri innumerevoli peccati che gli uomini così allontanati da Dio avevano commesso, avrebbe operato la redenzione, cioè la riunione del creato col creatore. Ora, ai bordi dei deserti sassosi dove solo i cardi fiorivano con un fiore viola, sui monti della Samaria, dove l'estate le greggi cercavano pascolo, sulle dolci colline della Galilea che avevano case tra fichi e ulivi e vigneti, ai lati del Giordano e sulle rive del lago di Tiberiade, dove gli alberi crescevano alti e i campi producevano in abbondanza grano e lino e in abbondanza davano pesci e le acque, nei tanti villaggi senza importanza sparsi per la terra promessa e data, lì risiedeva una gente che sentiva l'Eterno nostro Dio presente non solo nella nascita e nella morte, nella preghiera e nella meditazione, ma anche in qualsiasi altra attività o pensiero, nel cibarsi o nell'andare al mercato, nell'arare o nel mietere, nell'alzarsi e nel coricarsi, nell'accendere il fuoco e nel sentire il vento. E questo significava essere Israele, popolo scelto e benedetto. Io, Giuda Iscariota, nato a Gerusalemme da padre mercante, cresciuto all'ombra del Tempio, istruito nella legge e nelle scritture, osservante delle norme e dei precetti, legato agli zeloti per cospirazione e fuggito dalla città santa per scampare alla croce, percorrevo le terre di Israele ansioso che l'Eterno Adonai si manifestasse mostrandomi un segno della sua potenza o della sua vanità. Ero giovane e impaziente. Fino a quando, o Signore? Cingiti la spada al fianco e nella tua magnificenza guidaci all'attacco sul carro per la causa della libertà, della verità e della giustizia. Ma i soldati di Roma stavano sul monte della tua santità e imponevano tributi. E quanto al resto, andando per le tue terre, sempre capitava di imbattersi in ciechi nati, sempre urlavano bestemmie i posseduti da Satana, e troppo frequente era il battere di legni con cui i lebbrosi avvertivano le genti di fuggirli. Di fronte a ciò, io ero tentato di chiedermi dove fosse l'Eterno e se ci fosse davvero un Eterno o non piuttosto un infinito vuoto, un infinito niente, come aveva cantato Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme, e aveva cantato anche nel suo breve canto appassionato: l'unico bene che l'uomo ha sotto il sole è mangiare, bere e godere. Questo stava scritto nel libro. E allora perché io, Giuda, non riuscivo ad essere splendido e sperperato? Che cosa ricavavo da tutto il mio penare, dal torturarmi il cuore? A che mi portava il mio sforzo sotto il sole? Mi interrogavo, interrogando l'Eterno, e l'Eterno tacendo. Dovevo concedere che io trovassi una sorta di gloria in tutto il mio penare, forse perversa. Orgogliose privazioni, ardite preghiere nutrivano sconfinate ambizioni. Ero forte e coraggioso, al pari di un re. Non dovevo perdermi. Non era forse detto nel libro anche questo, con parole di re? Non dare il tuo vigore alle donne, né i tuoi costumi a quelli che perdono i re. La virtù era potenza. Perciò odiavo il peccato. Ma il peccato era ovunque, non solo a Gerusalemme. Lo si trovava oscuramente mescolato alle preghiere e alla speranza, alla carità e all'amore. E poteva anche darsi che la confusione dei sentimenti avesse radici remote, essendo stata la conoscenza del bene e del male contenuti in un unico frutto, la prima interminabile trasgressione. In effetti c'erano peccatori tra i leviti e i fedeli, tra i vasai e i muratori, tra gli operai delle vigne e i guardiani di porci, tra pastori e pescatori, e sicuramente c'erano adultere tra le donne che lavavano panni al torrente o andavano al pozzo ad attingere, tra quelle che filavano e tessevano, che pestavano il grano davanti all'uscio o impastavano il pane, e senza dubbio erano peccatori i prominenti che si mettevano a pregare in prima fila, i padroni che non davano giusta mercede, i giudici che trascuravano la legge. Peccato c'era in chi dava soldi a strozzo o riscuoteva gabelle o portava cibo alla bocca senza ringraziare l'Eterno. E peccato c'era anche in me, a causa della mia impazienza, del mio continuo dubitare e interrogare, ma era la vastità stessa del peccare che generava speranza. Tanta oscurità necessitava non di misericordia, ma di redenzione. L'Eterno non poteva insistere nel suo smisurato silenzio, altrimenti il popolo scelto e benedetto si sarebbe perduto, dissolto l'immenso impero di Roma. Dov'era la presenza dell'Eterno? A suo tempo farò presto, aveva promesso. Qual era nel volere dell'Altissimo il tempo dovuto? L'ora viene, ed è questa, ripeteva la gente, e molti asserivano che l'atteso, il Messia, l'unto del Signore, già si trovava fra noi, già faceva sentire la sua voce a chi volesse intenderla. Ma il volere poteva anche derivare da necessità, e invero mai le terre di Israele, da Dan a Barsabea, erano state percorse da tanti messaggeri e profeti e pellegrini di Dio che predicavano ed agivano tra nebbie ed enigmi, parlando con parole che essi proclamavano provenire dall'Eterno e operando talvolta meravigliosamente con una potenza che giuravano provenire dall'Eterno. Andavano di villaggio in villaggio, davanti alle case e dentro le sinagoghe annunciavano buone novelle, chiamavano Dio a testimonio, e qualcuno arrivava persino a fare miracoli, cioè, quando gli andava bene, a forza di invocazioni ed esortazioni, qualche muto si metteva a parlare, qualche indemoniato si acquietava. Allora la gente gli faceva festa, gli portava doni, organizzava banchetti. Quasi sempre, ancor prima che il banchetto finisse, il muto tornava muto e l'indemoniato ricadeva nel suo oscuro male. E allora si capiva che non con la potenza di Dio colui aveva operato, ma con l'aiuto di Belzebub, nemico di Dio. E questo a maggior confusione e smarrimento di Israele, sicché il disgraziato doveva più che in fretta levare le mense e scapparsene per non finire lapidato. E se era proprio un ciarlatano, s'avviava ad un altro villaggio per ritentare l'impresa di guadagnarsi un banchetto, ma poteva anche andare verso il deserto, dove erano pietre, vento e solitudine, dove più facile era interrogare l'Eterno e più facile morire. Impenetrabilità. Come sempre, era gioco di mano, trucco, ciurmeria o cruda volontà di potenza con coinvolgimento di demoni, o religione falsa finché si vuole, ma originata da illusioni e non da complicità col maligno. D'altronde, se il nostro Dio era uno e tutto, come poteva lasciare qualcuno qualcosa al di fuori di sé? E ancora, perché la sofferenza, l'ignoranza, il dubbio e l'impazienza? Con impazienza cercavo, sulla traccia di tanti improbabili profeti, qualche barlume di rivelazione, segni sottili. Gli improbabili non ce la facevano a sedurmi. Sapevo giudicare d'un braccio capace di reggere contro Roma una spada, di occhi dove fosse manifestazione di spirito, di voci che in qualche modo riecheggiassero il soffio di Adonai. Eppure anche loro, specie i più malinconici e predestinati, in qualche modo esprimevano l'ansia del popolo scelto e benedetto, la delusione per il lungo silenzio dell'Eterno, l'urgenza che, se il veniente aveva da venire, non facesse troppo tardi. La terra, promessa e data, stava ora sotto il dominio degli infedeli e il dolore di vivere in quella terra non era minore che altrove. Nemmeno crudo che nel passato, c'era forse da attendere disgrazie maggiori. Perciò, tra il popolo più vicino al Signore per preghiere e onestà di vita, correva voce che l'atteso fosse già tra noi, però nascosto, con difficoltà di trovarlo. La difficoltà, pensavamo, era voluta da Dio, affinché tutti s'adoprassero con impegno e diligenza, certo non impazienza, nello scoprire l'unto. Forse non si sarebbe rivelato senza che noi facessimo qualcosa di più di quel che stavamo facendo affinché si rivelasse. Questo doveva essere il significato dell'esortazione dei giusti. State pronti, vigilate. L'ora viene e tutti stavano in ansia, cioè praticamente inclini a cadere anche negli errori più grossolani. Tuttavia, tra le molte contrastanti voci che correvano, una ce n'era che sembrava più seria e consistente e riguardava un tale che l'animo alieno da donne e mollezze digiunava e non beveva vino. Nemmeno compiva che si sapesse grandi prodigi, ma testimoniava di Dio e battezzava con l'acqua del Giordano. Battezzare significava restituire purezza al corpo e allo spirito, donare beneficio di grazia, e l'autorità di ciò non poteva venire che dall'Eterno. Non era detto che non fosse lui l'unto, però tutto sommato il suo seguito di persone non era tanto grande da lasciar pensare che egli potesse assolvere i compiti che tutti pensavamo dovessero aspettare all'atteso. Avevo avvicinato qualcuno che era stato battezzato da lui. Si chiamava Giovanni, il battezzatore, appunto. E questi battezzati non erano granché diversi dagli altri. Sembravano trovarsi nelle difficoltà di sempre per quanto riguardava miseria o dolore di vivere, soltanto apparivano toccati nello spirito, più persuasi che fosse imminente la rivelazione del Messia, e con ciò la fine d'ogni sofferenza, e lo credevano semplicemente perché glielo aveva detto lui, il battezzatore, al quale per qualche inesplicabile ragione non si poteva non credere. Sempre difficile la nostra fede. Come mai questa preparazione all'avvento, o l'avvento stesso secondo quelli che pensavano essere lui l'unto, avveniva con così poco splendore e potenza? Un battezzato alla volta, o piccoli gruppi di persone che poi tornavano a casa loro a fare le cose che avevano sempre fatto, con immutata fatica. Non era così che si poteva immaginare il giorno ardente come una fornace, la redenzione di un popolo tanto bisognoso di redenzione. E poi, che pensare del dominio di Roma? Questi battezzati mostravano di non curarsene, spesso di ignorarlo addirittura, forse in dipendenza d'una nuova attività del loro spirito. C'era qualcosa da capire in ciò. Mi incamminai verso il Giordano. Dicevano che stesse sulla sponda sinistra, in terra del tetrarca Erode. Lì stava, infatti. Marco Foschi ha letto La Gloria di Giuseppe Berto. Tutte le puntate sul sito e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.